perché i politici hanno le loro idee, la loro morale, e naturalmente si devono basare su questo. Ai nostri eletti chiediamo di guardare nel sistema, e se prendono decisioni che sono contrarie a quello che si è deciso con questo sistema, di spiegare accuratamente perché l'hanno fatto. Probabilmente se un eletto lo fa troppo di frequente, presumibilmente non verrà più votato. Ma non c'è ragione di far andare in Parlamento gente che vota solamente quello che vogliamo. Sono politici, sono persone, sono umani, e quindi votano quello che vogliono. Come vi dicevamo, anche il Movimento 5 Stelle ha deciso di sperimentarlo. Lo ha fatto il Movimento 5 Stelle in Sicilia. Abbiamo chiesto delucidazione ad Alfonso Moscato, che ha coordinato il progetto in Sicilia. Noi il 9 giugno abbiamo fatto un'assemblea regionale dove ci siamo trovati di fronte alla difficoltà oggettiva, che era la difficoltà di capire chi alla fine scegliesse, chi doveva scegliere il programma. E naturalmente, siccome siamo un movimento molto democratico, è uscita questa idea di liquid feedback. Questa liquid feedback ti permette di spostare la capacità decisionale su un tot numero di utenti, e permette ad ogni utente di fare la propria scelta in base a un punto del programma. Noi lo stiamo utilizzando in merito alla stesura e alla votazione del programma, ma si può utilizzare per esempio anche per interfacciare la base elettorale con l'eletto. Oggi come funziona? Tu vai a votare e deleghi il tizio per 5 anni, che deve decidere su tutto. Quindi questo tizio che tu deleghi dovrebbe avere una conoscenza ottimale del tutto. Ma può questo tizio X avere la conoscenza ottimale di un insieme X, Y infinito? No. Allora, che succede? L'incompetenza ce la ritroviamo molte volte in Parlamento. Questo sistema ti consente di delegare pro tempore in maniera molto veloce e subito immediatamente revocabile, quindi in qualsiasi momento è revocabile, un delegato che all'interno del sistema stesso prende una decisione per conto tuo, perché magari quel delegato, essendo un ricercatore di diritto ambientale, è molto più preparato di te sui temi ambientali. Ti consente di oltrepassare il metodo di delega che abbiamo utilizzato oggi. Consente anche alla base elettorale di interfacciarsi direttamente con gli eletti, perché un eletto che ha un mandato per 5 anni si stacca dalla base, fa un po' quello che gli pare a lui, invece non deve essere così. Per questo anche la politica si è staccata dal cittadino. Adesso c'è la viabilità, ci ritroviamo tra un attimo. Italiani! Vota Antonio, come la rete cambia la politica. E dunque, sentite queste due esperienze sul campo, vogliamo anche farci una riflessione sopra, capire che cosa c'è dietro. Parliamo di questo, ma anche di altro, con Dino Amenduni, che lavora per Proforma, che è un'agenzia di comunicazione che si trova a Bari. Ha curato tra l'altro le campagne elettorali di Vendola e quella di Pierluigi Bersani per le primarie. Dino, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, ti sottopongo una prima riflessione. A me sembra qua che ci sia una sostanziale differenza tra quello che viene detto dalla Germania e quello che ci dice l'esponente del Movimento 5 Stelle, cioè una concezione del controllo sull'eletto molto più stringente nel secondo caso rispetto al primo. Allora, penso che ci siano due piani che sono sistematicamente sovrapposti e in alcuni casi questa sovrapposizione crea confusione. Secondo me c'è una indubbia domanda di partecipazione da parte dei cittadini, soprattutto online, soprattutto quelli abituati a discutere, dialogare, a prendere parte a processi partecipati o a semplicemente interagire con i politici in rete. Questa domanda va in qualche modo soddisfatta. C'è poi la componente invece del, come dicevi tu, del quanto deve entrare questa domanda all'interno poi del processo politico, del processo democratico tradizionale. Secondo me la sovrapposizione crea confusione, perché io sono dell'avviso che non tutti i cittadini vogliono che la delega che viene data